Francis. E comincia. Ne me romper ca. Ne me romper ca. Ne me romper ca. Ne me romper ca. Ne me romper ca. Ne me romper ca. Ne me romper ca. Ne me romper ca. Ne me romper ca. Ne me romper ca. Ne me romper ca. Me romper cœur, me romper cœur, me romper cœur, me romper cœur. Qui m'a roté cœur, qui m'a roté cœur, qui m'a roté cœur, qui m'a roté cœur, qui m'a roté cœur, qui m'a roté cœur, qui m'a roté cœur, qui m'a roté cœur, bien sûr. Amici di Runtime, buonasera, e con il tributo doveroso al compianto Gigi Proietti che io, Simone Pizzi, Marco Gualdi, Carmine Puccio, console, e Francesco Di Muro vi diamo il benvenuto a questa serata un pochino più triste del solito di OGM, oltranzisti, giuridicamente mal informati, con la sigla di Gualdi. Ragazzi, buonasera e bentrovati. Come va, ragazzi? Come va? Siamo un po' tristi, lo possiamo dire? Beh, un po' più del solito, come hai detto te, perché non è che gli altri giorni stavo meglio, quindi... Ma perché, insomma, ci sono forse dei motivi per essere tristi? No, no, in realtà no, è l'anno forse uno degli anni migliori del 2020 a questa parte, insomma. Uno degli anni migliori tra i nostri anni peggiori, praticamente. Esatto. Fatemi... Questo volevo dire. Esatto, hai visto? Fammi salutare subito, facciamo, come dire, togliamoci subito da gli oneri, da quelli seri, istituzionali. Diciamo le cose come, con il loro nome. Salutiamo gli amici in chat che già da una mezz'ora di abbondante silenzio ci stavano aspettando. Ci sono Zio Mischi, Leo Vargeon e Cuciniere dallo spazio sempre più profondo, anzi dallo spaccio sempre più profondo, un po' come profonda la nostra malinconia di questa sera, vero Simone? Non lo so, vuoi esordire tu con un pensiero? Guarda, mi hai colto un po' impreparato. In realtà ero questa notte... ero sveglio perché, insomma, per varie ragioni, e tra le varie notifiche che arrivano, insomma, sui vari quotidiani, su Telegram, c'era questa notizia che era gravissima, erano gravissime le condizioni di Gigi Proietti, che, insomma, vabbè, tanti come noi, magari chi più chi meno lo ha seguito, insomma, negli anni. Secondo me, ecco, con la scomparsa di Gigi Proietti forse muore l'ultimo maestro di quella sua generazione, di quel tipo di attore, di quel tipo anche di cinema, che secondo me ha raccontato delle storie meravigliose, insomma. Quindi molti dicono vabbè, un grande lutto per Roma, ma secondo me è un grande lutto in generale, perché comunque le storie che hanno raccontato quel gruppo di maestri, quella generazione di attori, secondo me sono storie abbastanza universali, di un'Italia che è sicuramente completamente diversa da adesso. E quindi, ok, a 80 anni, con una carriera anche, insomma, soddisfacente, con una scuola attoriale importante. Ricordiamo che tra Proietti, per i più, è il personaggio goliardico, comico, quello di Mandrake, della Febbre da cavallo, piuttosto che degli show televisivi A me gli occhi please, eccetera, ma è anche stato il direttore artistico, non mi veniva, di vari teatri importanti, dal Brancaccio al Globo all'interno di Villa Borghese, ed è stato anche coinvolto in produzioni di tipo shakespeariano, quindi non era soltanto quello era rimodernato un intero teatro a Roma sul modello di quelli shakespeariani. Il Globo, poi permettetemi, esatto, poi mi permetto di ricordare, è stato anche a Bari direttore del teatro Kursaal per diversi anni. Era un attore, a parte con una capacità vocale incredibile, infatti insomma sono diverse le prestazioni anche come doppiatore e anche no, come cantante, che... lui mi pare ha 8-9 album da crooner, come lo possiamo definire come tipo di cantante, non lo so, però insomma da cantante diremo cantante. No, dicevo comunque in generale, ecco, a 80 anni comunque con una carriera soddisfacente, alla fine uno dice vabbè ragazzi, tanto prima o poi, no, si sa. Però in realtà ecco i personaggi che io ci ho pensato durante quest'anno, no? Nel senso, certo è rimasto Gigi Proietti, alla fine ci ha salutato anche lui. E quindi gliel'hai tirata, insomma. Io l'ho tirata, sì, un po' gliel'ho tirata. Devo dire, guarda, veramente mi dispiace tanto, però io la cosa che forse mi dispiace di più è il fatto di pensare che tutti quanti oggi abbiano fatto speciali, servizi e roba del genere, da domani sti cazzi, insomma. E questa sarebbe forse la morte peggiore, no, per un artista immenso come Gigi Proietti. Ecco, questo volevo dire. E non possiamo esimerci dal dire che abbiamo, intanto saluto Stefano e Piergi che ci hanno raggiunto in chat in diretta. Questa notizia è arrivata come una bomba, quando già eravamo tristi, perché comunque un altro mito del cinema e della nostra infanzia, della nostra cultura cinematografica, si era spento poco più di 24 ore prima, perché ovviamente, per chi non lo sapesse, se c'è qualcuno che non lo sa, sabato mattina è venuto a mancare a 90 anni, nel modo migliore probabilmente nel sonno, Sean Connery. E quindi abbiamo perso in un colpo solo Henry Jones, abbiamo perso Marco Ramius, abbiamo perso, aiutatemi a ricordare i suoi personaggi, Juan Ramirez, che altro dimentico? Come James Bond. Alan Quater, okay. Ormai non vorremmo dimenticarlo, diciamo. Beh, guarda, però quello è l'unico film preso dai suoi fumetti che è piaciuto ad Alan Moore. Il che dimostra che Alan Moore, in fatto di cinema, c'ha dei gusti veramente di merda. Possiamo dire anche che c'è una strana congiunzione, no? Tra l'oggi e il domani, tra la morte di uno e la morte dell'altro, quindi Connery e Proietti, che hanno condiviso anche un passaggio, no? Eh sì, piccolo, ma insomma da segnalare, perché sono stati i doppiatori nella versione originale, nella versione italiana, di Draco, che è il drago di Dragonheart, che è un film con Dennis Quaid del 95-96, adesso non ricordo bene l'anno. Magari non è la loro prestazione più importante della carriera, però è stato un trade union, in questa cosa si sono ritrovati uniti, perché hanno dato voce allo stesso personaggio. Sì, poi Connery, vabbè, muore con 10 anni di più, a 90 anni, nella sua villa alle Bahamas, nel sonno, quindi penso il top del top, se uno dice, sai, se proprio sì, devo morire, no, nel senso... Diciamo che forse... Però c'aveva una giovane asiatica al fianco, però. No, non ho capito Gualdi che ha detto, scusate. Anche la giovane asiatica al fianco. Ma in realtà negli ultimi anni si è sempre parlato di un Connery non proprio presente mentalmente, quindi non lo so. No, la moglie ha confermato che aveva una forma abbastanza seria di demenza senile. Vabbè, ma poi lui era malato già da un sacco di tempo, quindi cioè nel senso, vabbè, allora il problema è che, ma neanche, cioè in realtà poi andare a investigare il come, il perché, il che è successo, non ci importa neanche niente. La verità è che comunque sono quelle stelle che prima o poi si devono spengere, perché lo sai, e quando si spengono un po' ti rimane qualche cosa, perché cominci a fare quel percorso a ritroso dicendo che me so perso. E infatti io e Michela domani sera ci vedremo Indiana Jones, bello, sempre crociata, bello, perché secondo me lo dicevamo ieri sera al Runtime di Notte, secondo me è dei tre il più bello, cioè assolutamente, perché tre, c'è proprio una commissione di equilibri. Sì, è vero, c'è un quarto che tutti abbiamo, scusate, volevo dare esatto, no, ma quello lo ricordiamo con piacere. Volevo dare una comunicazione di servizio, perché Pier G ci segnala che Simone ha la voce che frigge. Sì, lo sappiamo, lo studio 1 di Runtime oggi in questi giorni è in frittura, di conseguenza per oggi la puntata va così. Ciao zio Mischi, ben ritrovato. Quindi se oggi sentite la voce di Simone leggermente sottotono rispetto al solito, portate pazienza, dalle prossime settimane torna tutto normale. Sì. No, torna tutto meglio in realtà, perché sennò Raga, uno che investe a fare, abbiamo... dici? Lo sforzo immenso che abbiamo fatto, voglio dire, cioè, nel senso, poi dopo sarebbe ridicolo, insomma, che torniamo alle condizioni precedenti. In realtà, ecco, abbiamo fatto uno step, insomma, che dopo 10 anni, forse, nel senso, vabbè, nei vari passaggi, nei vari step che abbiamo fatto dal punto di vista tecnologico, speriamo, insomma, che insomma, da domani o dopodomani sentirete qualità, esatto, la qualità, esatto, e va bene ragazzi, insomma, la nostalgia un pochino ci ha preso, nostalgia e sicuramente canaglia. Prima di cambiare argomento, perché poi è chiaro che oggi è il giorno in cui e questa forse è la puntata in cui avremmo voluto o dovuto parlare del tramonto di un altro sipario che si cala, del tramonto di Trump, ce lo auguriamo, perché non è detto, però viste queste... il tramonto del buon senso, se dovesse rivincere, comunque qualcosa tramonta, sì, insomma, diciamo. Ci prendiamo ancora un attimo, avremmo parlato di questo argomento a sprombattuto, però ovviamente in questo momento siamo più coinvolti da questo tipo di notizie che hanno a che fare con lo spettacolo, e visto che stavamo parlando sia di Sean Connery che di Gigi Proietti, vorrei chiedere a tutti voi, facciamo un giro, il vostro personaggio preferito di Gigi Proietti e il vostro personaggio preferito di Sean Connery, iniziando da Francesco. Allora, Proietti, mi ricordo, vado a scavare più su una cosa un pochino più meno conosciuta. Lui tempo il Cavaliere fa... Nero. Dopo lo mettiamo il tributo al Cavaliere Nero, ve lo anticipo. Ha fatto per la televisione. Che non è Walter Bannini. No, quello è il Data, il Cavaliere Data. E il Cavaliere De Notte Data, poi si capisce solo lui, però gli vogliamo bene. E personaggio, tipo negli anni 80 lui aveva fatto una produzione televisiva, però in realtà fatta bene, del Cyrano, in cui lui faceva Cyrano, e non lo so perché mi è rimasto particolarmente nella memoria, nelle parti più emozionali del cervello, quella sua performance, cioè non è forse il suo top, però comunque, cioè, lui come Cyrano era perfetto inevitabilmente. Poi di Connery, vabbè, sono rimasto affezionato anch'io a Derry Jones Senior, quindi. Ma soprattutto io, c'è un momento di Indiana Jones, l'ultima crociata, che anche se non ritengo il più bello, forse è comunque il mio preferito, per me il più bello prima, però rimane il mio preferito comunque, anche da quando ero bimbo. Quando tipo... Senza Harrison... morire però, sì, non ti preoccupare. Ho morto io, non dirò barzellette riguardanti i disturbi gastrici stasera, quindi non salterà la linea. Perché ieri sera, tantende notte, volevo dire una barzelletta che riguardava, e ogni volta che provo a dire cioè quella parola, saltava. E c'è una parte quando Harrison Ford, cioè Indy, gli chiede come faceva a sapere che Elsa era una nazista. E lui gli risponde candidamente, in modo, cioè, improvviso al momento, parla nel sonno. She talks in her sleep, però immaginate. Ma si vede proprio dall'espressione di Harrison Ford, proprio l'espressione genuina, prima di Harrison Ford, proprio quasi sconvolta, che proprio non se l'aspettava quella battuta. Poi un sorrisino del cazzo che gli fa Sean Connery, cioè, genio assoluto. Cioè, io penso che quella scena, se fosse stata girata in un film italiano... Gli diceva: tu come facevi a essere la nazista? E quello è, sotto bocca faceva blindato per cazzo lo scappello a destra, e quello gli faceva, e quello gli faceva il sorrisino, capito? Quindi, vabbè. Simone, già che sei al microfono, per te quali sono i due personaggi dei rispettivi attori che ricordi con più? Ah, io di Connery mi ricordo una bellissima interpretazione di un bruttissimo film, Camelot, non so se ve lo ricordate, dove lui ovviamente faceva Rialto, quello con no, come cacchio si chiama, Richard Gere. Con Richard Gere, esatto, il film era terribile. Il primo cavaliere, sì, bravo, sì, bravo. E qui di nuovo c'è il trade union tra Proietti e Connery. Però esatto, non era né bianco né nero, quello era solo primo. Che comunque Connery, secondo me, dava, allora, secondo dava me un colore all'ambiente. Sì, esatto, secondo me non c'è solo la questione della grande capacità attoriale, c'è anche la presenza fisica, che secondo me e fa una grande differenza, insomma. E comunque Connery è uno che c'era proprio il physique du rôle, il caso di dire physique du rôle, esatto, bravo, esatto, era proprio quello che volevo dire, insomma. Per quanto riguarda Prognetti, in realtà non è come ritornato, insomma, ieri sera su Tantami di Notte. Io non sono capace di trovare una cosa che, perché poi mi verrebbero in mente altri 50 e poi dopo si apre, non sa chi daresti, insomma. Esatto, bravo, mi astengo. Secondo me lui dal punto di vista cinematografico rendeva tanto quanto dal punto di vista teatrale. Quindi, cioè, è come, io rimpiango per esempio di non averlo visto a teatro, non mi è mai capitato ed è una lacuna che non potrò mai colmare. Non lo so, penso di no, mi sa di no. Se non, tra diciamo, con le registrazioni. Posso raccontare un aneddoto? Tra l'altro ti ha visto anche protagonista. Perché oggi sulla chat dei morti di bestemmie, anzi, diciamo, la chat di MDB o The Original One, quindi cercatela su Telegram e entrate se volete, insomma, possiamo chiacchierare. Ho scritto: ragazzi, è morto William Shatner. Perché dai, nel filone delle persone che morivano. Allora Davide ha scritto: ma che davvero? Io ho detto sì. E i fan sono tutti incazzati perché Nimoy non andrà al funerale. E là c'è tutto un doppio carpiato, insomma. Esatto. E niente, volevo fare anche io un po' il lercio della situazione, insomma. Marco, dici i tuoi successi dei nostri compianti. Allora, Gigi Proietti non ti saprei dire, perché l'ho frequentato poco. L'ho frequentato poco, io frequento poco il cinema italiano, soprattutto negli ultimi anni. Mi ricordo alcuni pezzi di alcuni sketch, di alcuni film di cui non saprei neanche dirti il nome. Bene. Quindi non mi, diciamo, inoltro in ulteriori cose, perché non saprei cosa che dire. Okay. Di Sean Connery sono più affezionato a James Bond, okay, proprio, prima, cioè, cosa, un classicone, è un classico. Beh sì sì, diciamo che è l'imprinting. Anche Ramirez, perché non citarlo, perché non citare Ramirez? Uno, ne devi scegliere uno, sennò poi ne togli qualcuno agli altri. Quale uno? Ramirez, quello del primo o del secondo il film? Ramirez. Il secondo film lo hanno rinnegato tutti. Esiste proprio il secondo. Sì, però l'hanno fatto, capito qual è il problema? Cioè, se sei un attore con i coglioni, non ce l'hai. Hanno fatti sei. Però ti dico, quel film è una serie TV. C'è quella scena epica si fa per dire, che però adesso è evocativa, in cui il personaggio di Connor McCloud urla, invoca il nome di Ramirez e, a causa della stortura della trama di quel film, sostanzialmente ha fatto resuscitare Ramirez. E in un momento della nostra giornata di ieri non abbiamo pensato di poter urlare Ramirez e far tornare Sean Connery? No, però no. Però non lo so, bisogna chiedere a Nimoy pure, penso. Esatto. E, Carmine, i tuoi? Vabbè, io Proietti l'altro giorno ci stavo riflettendo, diciamo. Avevo, posso dire una cosa, che Carmine c'ha un problema, se, dato che questi entrambi non hanno, forse sì, diciamo che Proietti, non avendo mai partecipato a un videogioco, è un po' complicato, capito? Sì, ma neanche Sean Connery probabilmente, che io ricordi non ha mai dato voce a nessuno. Sai, no, lo so, dobbiamo controllare, ragazzi, esatto. In effetti mo' hai fatto venire il dubbio. No, io l'altro giorno pensavo ai film di Brancaleone e di Monicelli e mi sono ricordato che Proietti nel secondo, in Brancaleone e Crociati, fa due, almeno due personaggi, addirittura tre, se ricordo bene, uno nel primo, due nel secondo. Fa Pattume e il saggio colombano, che è quello che poi chiede a Brancaleone di fare da di compiere l'azione che dovrebbe decretare chi è il vero papa, cioè camminare sui carboni ardenti lentamente, anzi, come dice lui, lentopede. Invece Connery, vi vorrei dire Bond, perché io sono un imbracchiato dei film di Bond da quando ero bambino, con la differenza che invece che voler fare l'agente segreto, io volevo essere M, quello che fa i gadget. Sempre adorato il personaggio. Però l'altro giorno mi sono ricordato che uno dei film di fantascienza più fuori di testa che ho visto nella mia vita è Atmosfera Zero. Bravo, cazzo, lo volevo dire, mannaggia la puttana. Che poi, tra l'altro, cioè, è così fuori di testa. Poi era fighissimo quel film. Che fa il giro e diventa un capolavoro. Sì, no, a me, io ho adorato quel film, cioè... E non intanto è un saluto Michela che ci ha raggiunto in chat. Cioè, il fulcro del film è trombare come non, come non ci fosse un domani. Sì, sì, sì, no, è vero che devono scopare per, scopare per forza. Scopare armi. Il fulcro di quel film è scopare armi, sostanzialmente. Scopare le armi. Ma comunque lui ha un costume meraviglioso, credo, assolutamente improponibile. Cioè, tipo disegnato da un sarto della Stasi sotto LSD. Una roba meravigliosa. Ma no, comunque veramente quel film ogni tanto me lo rivedo con piacere, perché comunque è talmente tanto fuori di testa che non, non ci si capisce. Allora ragazzi, se mi permettete chiudo io con i miei due film. Ricordo, per quanto riguarda Proietti sarebbe fin troppo facile dire Febbre da cavallo, perché è quello che ci ha lasciato un sacco di battute, un po' come Boris, per fare un parallelo, la quotidianità... La quotidianità di uno che vive a Roma è abbastanza intrisa anche di battute che possono provenire da Febbre da cavallo, ma non dirò quello, dirò un altro film che sempre per romanità è giusto citare, che è Meo Patacca. Ragazzi, Meo Patacca è un altro di quei film che magari non ha avuto la rilevanza che si meritava, era uno di quei film in costume, un po' anche alla Monicelli e altri, alla, non ricordo bene quale fosse il regista di quel film, però insomma, racconta quelle storie di romanità trastevererina di epoche più o meno lontane nella, nella Roma dei Papi, quindi anche quello è sicuramente carino da ricordare e carino da vedere. Mentre invece per quanto riguarda Sean Connery c'è un personaggio in particolare al quale sono particolarmente al quale sono particolarmente affezionato, che va leggermente fuori dagli stereotipi Indiana Jones piuttosto che James Bond. Il personaggio a cui mi riferisco è l'ammiraglio Marco Ramius di Caccia a Ottobre Rosso. Per me è un altro... il doppio Ivan il Matto. Sì, io non è che sono mai impazzito in generale per quel film, quindi... Non lo so, io da, da bambino amavo molto anche i sottomarini come, come concetto di... arma tattica di nave da guerra, e per vari motivi non c'erano tanti film con i sottomarini. Quando è uscito Caccia a Ottobre Rosso io ero abbastanza neanche adolescente, forse insomma 12-13 anni o forse qualcosina in meno, e l'ho visto 50 volte, ho squagliato la videocassetta affittata in videoteca nel, nel videoregistratore, quindi insomma, cioè, ci sono abbastanza affezionato, ecco. Intanto Connery ha partecipato al gioco Dalla Russia con Amore, EA Redwood, Metascore 61. Quindi c'è, alla fine... cioè l'avventura grafica di Bond. Sì. Beh, ne sono stati fatti tanti di giochi comunque ispirati al James Bond. Bond, sì. Però, fino al, come dire, il... gioco del 2005. Comunque, dove, scusate, dove comunque... ragazzi, cioè, sì, però dall'epoca Pierce Brosnan in poi, cioè non sapevo addirittura che esistesse un gioco di Dalla Russia con Amore. Eh no, manco io in effetti, lo sto a leggere adesso su Spazio Games, perché cioè io di la demenza non so le peggio stronzate, ragazzi, però questo non lo sapevo, mo verifico. Adesso lo vado a cercare. Lo quello può. Che mi dispiace un po', ragazzi, parlando ancora di Sean Connery, è che la sua carriera si sia chiusa con un film che è la, una trasposizione che io ho odiato di una graphic novel che io ho amato, perché La Lega degli Straordinari Gentlemen per me è fenomenale, ho entrambi i volumetti, ma la trasposizione cinematografica è veramente... gli altri, allora no, te li presto io, ti devi leggere il Black Dossier gli anni fino al 2019, agli anni sì fino al 2019, ma io sai che sappiamo chi è l'avversario finale della Lega. Ah, interessante, però come racconto spesso, diciamo, ho messo un pochino ai box alcune cose, tra cui leggere i fumetti in questi ultimi anni, però niente mi vedrà di recuperare. Però ecco, per quanto io abbia adorato di Sean Connery, io ricorderei anche una cosa, cioè la sua più grande interpretazione, che è stato il fulcro di un intero film, anche se non era il protagonista, però ha dato un senso all'intero film, e cioè il re di Robin Hood, Riccardo Cuor di Leone. Di Robin, okay, del film Robin e Marion, è giusto? Fantastica. Non Robin Hood il principe dei ladri, perché... del film veramente è comparso poco in quel film, ma veramente gli ha dato un senso grandioso. Bellissimo. Ah, ragazzi, un altro tipo lo strafottivo. Un'altra importante citazione che secondo me dobbiamo fare invece questa volta tornando in casa nostra, e quindi a Gigi Proietti. Io ricordo la prima volta che ho visto Aladdin, e l'interpretazione di Proietti del genio è qualcosa di fenomenale. Anche se pensi a chi l'aveva fatto in originale, come è riuscito ad adattarlo lui. Vabbè, sì. Due modi veramente diversi di essere comici, però veramente un Proietti istrionico. È lì che si sono viste poi tutte le doti che citavamo prima, non soltanto quelle di attore, ma anche quelle di showman a 360 gradi, di uomo da palcoscenico, perché ha cantato, ha fatto ridere, ha fatto commuovere, quindi insomma una cosa veramente... Vabbè, ragazzi, che dire? Prima di girare pagina... Forse magari... è l'unico attore italiano che ha doppiato due personaggi Disney. Perché lui aveva fatto anche Romeo negli Aristogatti, da più giovane, vero. Però. Ma pensate... È vero, sì. È l'unico bidoppiatore Disney in Italia. Bidoppiatore. Ma poi lui è doppiatore di se stesso anche. Cioè? Questa è un po' schrodingeriana come cosa. Vabbè, ragazzi, lasciamo questa pagina un po' triste, con un omaggio che, come avevamo accennato, vi abbiamo preparato e che era doveroso. E dopo torniamo in diretta e parliamo d'altro. Sono, come potete ben capire, delle riflessioni colte che bisogna pur fare, insomma. E io invidio molto un mio amico, un professore di liceo, che insegna in un liceo della capitale, nel quale vengono da varie parti, dal centro, dalla periferia, quindi lui assiste al cambiamento del linguaggio, a come cambia, no, il gergo, come si modifica, e lui ha chiesto un giorno ai suoi allievi di raccontare, ognuno raccontasse una storia tratta dal mito, dalla mitologia, oppure qualsiasi, purché alla fine raccontassero, dicessero la morale che se ne trae da questa storia. Salsa uno, molto carino, elegante, dei varioli, cioè. Allora, Davide e Golia, benissimo, la so bene, ti racconto. Davide e Golia fanno a duello, ma Davide è un ragazzo, un piccolino, normale, invece Golia è un gigante invincibile, armato fino ai denti, ma Davide con una fiondata lo uccide. Morale, non sempre la forza bruta prevale sull'astuzia e sull'intelligenza. No, complimenti, c'è nessun altro che vuole starsi un coatto. Tu che vuoi raccontare? Al cavaliere bianco e al cavaliere nero? Non la so. Aso i aso. Al cavaliere bianco e al cavaliere nero fanno a duello. Il cavaliere nero d'ammazza il cavaliere bianco. Ma il cavaliere bianco c'aveva tre figli. Sti tre figli sfidano il cavaliere nero. Ma il cavaliere nero d'ammazza tutte e tre. Ma sti tre figli c'avevano tre figli per uno. Tutte e nove te sfidano il cavaliere nero. Ma il cavaliere nero d'ammazza tutte e nove. Ma sti nove figli c'avevano tre figli per uno. Tutte e 27 ti sfidano al cavaliere nero, ma il cavaliere nero ti ammazza tutte e 27. Ma sti 27 figli avevano tre figli, dice basta, dimmi la morale. E che il cavaliere nero lui è carica carcazza! E non potevamo chiudere in modo diverso se non ricordando che al cavaliere nero gli devi rompere il cazzo. Anche insomma, voglio dire, una cosa che poi è diventata stracelebre e che è stata ripetuta tante volte, un bel genere, anche se diciamo è una cosa che ci fa ride, però non è proprio insomma il non plus ultra, insomma, diciamo così. Però ci stava radiofonicamente, è quella che funziona di più. Anche la canzone Tumarotterka e via dicendo, secondo me, se non lo vedi in faccia, cioè se non vedi il video, secondo me è un po' perso. Sì, la mimica facciale durante questa interpretazione fa la differenza. È un grande. Lui che fa il francese che cerca di accendersi la sigaretta lo sguardo in alto, ma rotto il cazzo, cioè passa dal francese al romano in un 3 secondi, cioè una cosa veramente... E lì vedi il mostro insomma in senso buono, il talento mostro sì. E vabbè, ragazzi, che dobbiamo dire? E niente, torniamo un po' ai nostri argomenti. Intanto noi ci stiamo vedendo il gameplay del gioco dalla Russia con amore per GameCube. Cos'era? Abbiamo scatenato l'inferno. Esatto, mi spiace che non ho la sigla di Videoludica, sennò potevamo fare un crossover. No, no, ma guarda, lascia. Facciamo una puntata speciale di Videoludica. Se volete, va. Sono presto a trasformarlo, dai, metti gli asset adatti. Basta prendere gli assets naturali, insomma. Sì, esatto, no, vabbè, esatto. Non ne vale manco la pena, comunque, diciamo già la verità. Vabbè, ragazzi, comunque, torniamo un po', come dire, agli argomenti tipici di questi mesi, perché non ci possiamo scrollare di dosso neanche se vogliamo. Due cose in questo momento. Uno, ovviamente, è l'epidemia di Covid che continua a imperversare, e l'altra è... Esatto, e l'altra è Donald Trump, che per nostra sfortuna non è una delle vittime del Covid, diciamolo così, con un po' di cinismo, ma che potrebbe essere arrivato al suo viale del tramonto, perché domani si vota negli Stati Uniti, o meglio, domani si finisce di votare, perché abbiamo esatto, detto settimana sì, scorsa, sono già 10 giorni abbondanti che si vota, e per... Da settembre che si vota, già stanno mandando le cose per settembre. Quasi. Tra l'altro, nel frattempo, Leo Vargion ci chiede quando si fa un'altra videoludica. E zio Mischi invece ci dice basta Covid. Va bene, era tanto per dire, zio, non ti arrabbiare, non cambiare canale, perché non è che diciamo zio Mischi, cosa. Che parliamo di me, Leo Vargion, un attimo. Scusate, una alla volta. Detto zio Mischi, non vuoi che parliamo di Covid, se vuoi parliamo di merda, che parliamo di cacca. No, dai, basta con questa cosa, perché il poletto poi alla fine è anche geniale, anche geniale, zio. No, però ragazzi, una cosa che invece possiamo raccontare così en passant dell'epidemia di Covid indirettamente riguarda l'AstraZeneca, che è una delle aziende che stanno preparando i candidati vaccini, e fondamentalmente in questi giorni si stanno confermando quelle sensazioni che noi avevamo già qualche modo espresso, e cioè il fatto che alcune aziende, soprattutto l'AstraZeneca, ha già preparato milioni, se ho capito bene, miliardi di dosi. Miliardo di dosi. Sì. Di dosi con praticamente mesi d'anticipo, quindi prima ancora di sapere se il vaccino sarebbe stato approvato o meno, perché era evidente che qualora fosse approvato serviva sul mercato. Hanno riempito le bottiglie, come dicono. Esatto, più rapidi possibile. E tra l'altro il vaccino verrà venduto a prezzo di costo, e si parla di un controllore di circa 2 euro a dose, che non pagheranno gli utenti finali. Verranno pagati, o meglio, hanno già, guarda, le pagherei anche volentieri, pagati insomma dai governi. Sì, però insomma, se tutto va bene, per marzo la distribuzione di questo vaccino, che è stato specificato è in due dosi, in due richiami a 28 giorni, dovrebbe cominciare a essere concreta. Perché se sopravvive il primo, poi fare il secondo. Esatto. Che poi è quello che hanno fatto anche i russi, però l'hanno fatto con due vaccini diversi. Sì, ma poi è vero? No, vabbè, però insomma... No, perché vedo che in Russia siano però però in Russia c'è scritto tra i potenziali effetti collaterali del vaccino per il Covid c'è il Covid. No, più che altro diciamo che in Russia continuano con disinvoltura a fa finta di niente, cioè nel senso vabbè, ma mica solo in Russia, a parte che sì, in Russia c'è stato questo ricercatore, questo scienziato che si è preso il Covid proprio a inizio marzo, ha detto ora faccio una sperimentazione su me stesso. Dopo 6 mesi si è reinoculato il Covid e ha dimostrato che si è reinfettato, dimostrando solo lui che praticamente c'è bisogno per forza di un vaccino e non esiste la... Dice, come faccio a dimostrare che non esiste l'immunità di gregge? Mi infetto e mi rinfetto. Mi infetto e mi rinfetto. E c'è riuscito. Una di quelle classiche situazioni in cui dici, questo o è un genio o è uno stronzo. Però qui c'è... Cioè, è sempre la dietrologia da dire, questo è russo, questo sta dicendo il vaccino serve, visto, siamo sicuri che non sta, cioè è un modo di dire, un modo di far vedere, prendete questo cazzo di Sputnik 2, come cazzo si chiama il vaccino russo. Boh, io ho pensato anche queste cose, forse sto diventando complottista anche io. Senza due, solo Sputnik. Ragazzi, a proposito di complottismo, ho visto la serie complottista definitiva del 2020 e molto raro nel mio caso, ho visto 8 episodi in un giorno praticamente, perché questo fine settimana mi sono chiuso in casa, come era... Scusa, ma cosa fai adesso al lockdown? Ho voglia la roba che c'ho da vedere. Ti sei bruciato. No, ma devo dire che questa serie, che si chiama Utopia, che è stata messa a catalogo, è un originale su Amazon Prime Video, che è il remake, ci faceva notare proprio Carmine l'altro giorno, Utopia, una serie inglese. Utopia, Spano, si dice Utopia. Utopia, allora, Utopia... Di un uomo, tra l'altro, ho detto anche una stupidaggine, perché non era BBC, era Channel 4. Comunque, infatti, si vedeva che era fatta con meno mezzi rispetto alle serie. Vabbè, ma fate per là. Comunque, una serie di che cosa è il remake? Non ho ancora capito. una serie della quale io non conoscevo la sinossi, o meglio, l'ho letta su Amazon e parlava di certi tipi di tema, cioè scusami, ma io continuo a non sapere di che cosa è il remake, perché continuano a parlare di un'omonima serie inglese, di Utopia. Ah, ok, perfetto. Semplice. Ora ho capito. Ok. Allora, la trama, l'incipit della trama è questa: un gruppo di appassionati di un fumetto piuttosto raro e ovviamente non mainstream, quindi un fumetto indie potremmo definire, vanno a caccia di un fantomatico seguito che si è ritrovato in una cantina, in una soffitta, e che sta per essere messo in vendita come manoscritto, come opera unica. Quindi vanno tutti ad una convention di fumetti per cercare di accaparrarsi questo numero unico, e da lì questa serie che la serie originale, se non ricordo male, si chiama Distopia, mentre questo seguito che è stato ritrovato in numero unico si chiama appunto Utopia, e parla di complotti sostanzialmente, parla di tutta una serie di scenari complottisti nell'ambito della genetica, di varie cose che non voglio spoilerare. E da lì partono tutta una serie di eventi che legano questi personaggi tra loro, anche ad una sorta di fantomatica eroina che poi è più cattiva dei cattivi, se andiamo a vedere, e si creano delle storie che portano verso 8 episodi di splat, di gore, di cose veramente che non immaginavo. Peraltro poi si parla anche di un certo tipo di parallelo con la nostra realtà attuale, quindi non voglio anticipare nulla. Vi dico che è una serie un po' particolare proprio perché è abbastanza violenta, non lascia niente, come dire, al caso da un punto di vista della violenza, ed è una serie abbastanza sui generis. Il cast degli attori non è particolarmente famoso e rinomato, se eccezion fatta per uno dei protagonisti, che è John Cusack. Che dirvi? Vabbè, c'è anche qualcuno che ha fatto qualche serie americana secondaria. Sì, però ripeto, ecco, c'è uno che stava nel Dottor V, probabilmente, perché per richiamare che la serie inglese. Chi è il Dottor V? Chi è? È in cinese, chi è il Dottor V? Pizzi, scusi, Dottor che V? Ha fatto? Sta parlando dietro la capsula? Hanno incapsulato. Vabbè, pronto? Adesso, sentite? Adesso un po' meglio. No, ma quello il Dottor V dice, dai, non si può sentire, dai tempi De Bertoni che non sentivo il Dottor V. Che cazzo è? È il supereroe cinese, il Dottor V. Esatto, il mandarino. Il mandarino. Comunque, ragazzi, io ho appena visto, scusami, interrompo, poi continuate. Ho appena visto la boss battle più bella della storia del videogioco. Cioè, ma sempre veramente... Sean Connery che prende a pizzoni il cattivo. Sean Connery su una specie di poltrona jetpack che butta giù un elicottero. Ragazzi, è una cosa... Sto in piedi. Cioè, sono abbastanza sicuro che nel film non c'era. No. Ma sta in piedi in standing ovation praticamente, Pizzi. L'inno sovietico, guardate. Cioè. Dio là. A che minutaggio è che ho voglio beccare? Guarda, te lo dico subito. È al il turno al decimo minuto. Posso dire che questo è meta podcasting, comunque, Simone, perché mentre facciamo la diretta ti fai i benemeriti cazzi tuoi e ce lo racconti pure. Ma io sto ascoltando. No, ricordo, oh mio Dio, che ricordo le prime puntate di OGM, prima stagione, durante le quali tu giocavi a Candy Crush. Ah, sì, ma vabbè, lì era la droga. Però ne sei uscito, vero? Possiamo uscito, dirlo? Sì, è vero. Addirittura non ho nessun giochino sullo smartphone, niente, figurati, è una cosa incredibile. E vabbè, ragazzi, ma comunque... Non è più uno smart, praticamente. Io vi ho segnalato questa serie, se vi va di vederla mettetela nella lista delle cose da vedere. Vi ho premesso che è particolarmente strana, quindi potrebbe non piacervi. Vi premetto che sono 8 episodi soltanto, ma che suppongo ci sarà una seconda stagione, perché il finale ci lascia con un importante cliffhanger. Che altro dire, questo fine settimana poi ho visto Cotto e Mangiato, anche tutta la serie conclusiva di Suburra, e devo dire che sono rimasto un po' stupefatto, diciamo così, perché credevo che si sarebbe riallacciata direttamente al film. Io l'avevo essendo stata sempre intesa come una serie prequel, mi aspettavo che a un certo punto le storie dei due personaggi protagonisti, che sono Spadino e Numero 8, si riallacciasse al film. In realtà riscrive il finale in maniera alternativa, quindi ci sono rimasto un po' interdetto. Perché e è l'altro universo, è l'universo specchio quello. Eh sì, esatto, evidentemente c'è il multiverso anche nella, esatto, nella Roma criminale. La sburra lì. Sì, c'è quella di romanzo criminale il film, romanzo criminale la serie, poi c'è quella di romanzo il film. Io invece ho seguito un suggerimento di Carmine Puccio Consol, anche se in realtà ho visto solo un episodio e poi mi guarderò gli altri, di una serie su Amazon Prime che come si chiama? Truth Seekers. Truth Seekers, che è carino perché Truth Seekers, ridillo? Perché praticamente dopo che ci hai cazziato a tutti per Dottor V, ridici Truth Seekers. True Seekers. Truth. Con la lingua tra i denti, il TH, Truth. Ah, no, no, che te sei ancora. Chi fa dombola? Poi mi viene l'ictus. No, comunque è carina perché prende per culo praticamente una mia grossa passione, che è quella degli youtuber che vanno a caccia dei fenomeni paranormali. Ragazzi, è veramente carina. Cioè, date un occhio perché non so se poi Puccio vuole aggiungere qualcosa. Tra l'altro con Simon Pegg, dico bene? Sì, yes, sì, sì, yes. Sì, sì. Per cui alti livelli ci aspettiamo. No, no, ma cioè dei livelli produttivi abbastanza alti. Io sono arrivato al quarto episodio, ci sono una serie di plot twist abbastanza divertenti. È ovviamente una comedy, quindi sì, non c'è niente a prendersi sul serio. C'è una trama orizzontale sul paranormale che è fatta anche abbastanza bene. Vengono citati misteri in realtà reali, tipo le radio numeriche, sono quelle emittenti, esatto, in AM, sì, che trasmettono da anni delle sequenze di numeri. Esistono realmente, mi sa che ne abbiamo anche parlato in qualche puntata delle stagioni scorse di questa cosa, vero Simone? Sì, sicuramente da qualche parte ne abbiamo parlato. Però è carino perché poi prende in giro proprio anche le meccaniche, no, del tipico youtuber, quando c'è il fenomeno, oppure tutti gli oggettini che si portano dietro per rilevare il fenomeno paranormale, che poi sarebbero sempre i soliti rilevatori dei campi magnetici e roba del genere, solo che qui li ridicolizza un pochino di più perché li porta un po' quasi a livello dei Ghostbusters, no? Questi cosi che fanno rumore. Cioè, quindi è simpatico, devo dire, la prima puntata mi è piaciuta moltissimo, soprattutto quando l'anima del cane si è impossessata della donna, della vecchia, insomma. Sì, è vero. No, io vorrei fare una parentesi rapidissima su Utopia. Io sono arrivato solo al quarto episodio, devo dire, finora rispetto alla serie originale che abbiamo citato prima, diciamo, hanno preso il canovaccio, poi molta roba cambia. Io non so, Walter ha visto il finale, io non voglio fare spoiler. Io quello che ricordo del finale della prima stagione della serie classica, della serie originale, è che c'è veramente un ribaltamento di prospettiva. Quindi mi aspetto che accada la stessa cosa pure stavolta. Vediamo. Ma gli altri quattro episodi me li guarderò. Diciamo che quantomeno cerca di fornire un punto di vista controverso, nel senso che. È proprio quello, allora mi sa che l'ho mantenuto. Sì. È un'altra cosa che ricordo, che Channel 4 fece uscire veramente il fumetto sotto forma di materiale promozionale, lo potete trovare ancora su eBay se vi interessa. Io l'ho anche tentato all'epoca di comprarlo, ma all'epoca del 2013 uscì la serie, no, sì. No, perché comunque i disegni erano fatti veramente bene, erano di un disegnatore inglese. Un qualcosa che Puccio non ha comprato. Se hai voglia, ce l'hai visto. Innanzitutto non mi sono più comprato il caschetto per la realtà virtuale come vi avevo preannunciato. Mannaggia, quindi ti sei comprato la 3080. Non ancora, anche perché non si trova, anche volendola comprare, è un po' un problema. Che l'ha presa tutte di pre. Sì, insieme alle PlayStation 5. Esatto. Sì, in realtà Utopia, il fumetto originale, era illustrato almeno in parte da Dave McKean, che se vi piacciono i fumetti è quello che ha disegnato Arkham Asylum di Batman. È c'è un tipo Arkham? Di disegno. Esatto, Arkham Asylum. Hanno detto Arkham. Esatto. E questa è tutta romanità per tornare al punto. È un autore molto particolare che mischia acquarello, collage, tante tecniche diverse. Acchiapparella. Acquerello, Simone, acquerello. Okay, ragazzi, scusate se irrompo, però noi siamo anche in diretta e quindi alle volte ci tocca fare un po' radio di servizio. E purtroppo devo riportare una notizia non proprio bella, perché a quanto pare è in atto o si è consumato una sorta di attacco terroristico a Vienna, dove si sono sentiti degli spari davanti ad una sinagoga e al momento si segnalano un morto e diversi feriti, con le forze speciali della polizia di Vienna in azione. Un casino. Pensavo pure... stato negli Stati Uniti, giuro, io sono già preparato all'eventualità. Pure in Francia, visto se 2 settimane, insomma... Sì, ma ci sono dei paesi che proprio con l'antiterrorismo, quindi anche in qualche modo con quelli che sono le attività di intelligence, hanno grossi problemi. Io non riesco a capacitarmi del fatto che o in Italia siamo più bravi o per vari motivi abbastanza... diciamo che noi in generale comprensibili siamo da sempre noi stati certe cose meno nemici, succedono. No? Perché comunque, vabbè... Noi siamo tipo cristiani nel mondo. Esatto, cioè l'Italia... ma noi abbiamo anche, al centro di Roma, abbiamo anche il cuore pulsante di quella che è la cultura cattolica, perché c'è il Vaticano, che sarebbe, come dire, il, passatemi il termine, il primo bersaglio per chi volesse fare qualcosa di eclatante sotto un'altra bandiera, ecco, non auguriamocelo sì, però, mai. È vero pure che strategicamente, storicamente, l'Italia ha aiutato tutti ed è sempre stata... diciamo nella posizione veramente intermedia e non si è mai fatta veramente ci insegna, ma questo non solo adesso, in generale comunque in 40 anni io ne conto 2 di attentati terroristici in Italia, insomma internazionali, quindi sì, non quelli di terrorismo politico, diciamo così. Esatto. Certo. Quindi insomma questo dimostra il fatto che comunque poi se non altro questo tipo di politica in qualche maniera, e poi devi sempre considerare che comunque la Francia è un paese con una politica coloniale particolare, quindi bene o male vengono identificati come quei paesi più sfruttatori, no? più ladri di risorse, che sicuramente hanno creato più problemi e si sono fatti sicuramente molti più nemici, no? Da quel punto di vista, insomma. Ma noi questo problema, diciamo, generalmente non ce l'abbiamo quasi mai avuto, quel poco dei danni che abbiamo, anzi quei danni che abbiamo fatto li abbiamo pagati, e quindi insomma tutto sommato sta là. Invece la Francia è veramente proprio sull'occhio del ciclone da questo punto di vista. Poi c'è anche una situazione di immigrazione islamica molto forte, perché appunto comunque la sua presenza a livello coloniale è molto forte, quindi insomma ci sta alla fine, un po' ne paghi dopo le conseguenze di questa roba. Già. È anche vero che noi abbiamo un antiterrorismo molto più allenato, perché noi abbiamo avuto decenni di terrorismo interno che altri paesi europei non hanno avuto. Probabilmente. Se parli con qualcuno delle forze dell'ordine ti dirà tutte le cose che abbiamo detto finora e ti aggiungerà che abbiamo un antiterrorismo un po' più sviluppato. Sì, diciamo che in questi 3-4 anni, diciamo che tra i servizi segreti francesi e quelli belgi non sai chi è chi ha dimostrato un livello di imbarazzo, insomma, perché veramente anche cose tu vedevi anche soggetti che erano già sotto controllo, cioè se comunque tu c'hai già nella tua rete di controllo dei personaggi che il giorno escono e fanno un attentato, cioè c'è qualcosa che non funziona, insomma, oggettivamente. Anche zio Mischi concorda nel dire che l'Italia ha un antiterrorismo che ha fatto scuola nel mondo dopo gli anni di piombo, effettivamente. Comunque, insomma, se ci dovessero essere degli aggiornamenti su questa notizia che abbiamo dato praticamente in diretta di questo attentato in Austria, li daremo. Nel frattempo, tornando ai nostri temi consueti e andando anche in qualche notiziola un po' più leggera, cos'è il genio imprenditoriale se non quello che una compagnia aerea, presumo, di Hong Kong ha tirato fuori in queste settimane? Perché se sei un vero businessman, diciamocelo, cos'è che proprio non può mancare nella tua routine lavorativa? Viaggiare in aereo. Viaggiare in aereo, Marco. E allora, se non puoi viaggiare in aereo perché le frontiere sono chiuse e non si può atterrare, cosa possiamo fare per ovviare? Questo non ti deve fermare se sei un businessman. E non quindi, non ti deve cosa facciamo? Installiamo Flight Simulator? Prendi l'aereo e vai. E dove vai? Dove ti porta a fanculo? Vai a fare un giro, sorvoli. Ma è proprio un giro, ma su se stesso. perché questa compagnia aerea secondo me cambiano le scale di misura, no? Tu quello che prima era il viaggio che tu facevi in aereo, quindi che ne so, il viaggio internazionale o intercontinentale, oggi diventa il viaggio che potresti fare in treno o con l'autobus. Sì, no? Simone, ma in questo caso la notizia è veramente assurda, perché la Hong Kong Airlines cosa ha pensato di fare? Un volo di 90 minuti che sorvola praticamente il paese, in un certo senso, una parte lo del paese, e poi ti fa Hong tornare Kong, dallo scalo dove sei partito. Lo so, però sai, in aereo l'ispirazione, si fanno tanti contratti. Come si mandano le mail in aereo, non si mandano neanche al ristorante. Certo. Capisci, Ma poi mettere il martini che ti servono alla prima classe. E rimaniamo in tema. Su Teams e Zoom in aereo. Vero, potrebbe essere, ci sarebbe da fare un simposio su questa cosa. In aereo, meglio Zoom o meglio Teams? Chi è che tiene meglio l'effetto sfondo? Eh no, l'effetto Teams è più... Non l'ho mai provato lo sfondo, quindi non so come viene fuori. A parte che sei in aereo, quindi c'è già uno sfondo figo che puoi metterti, quindi c'è... non c'è bisogno, però. Ma effettivamente. Ma io vorrei precisare che nessun bambino è stato veramente mai seviziato durante questa trasmissione. È vero, anche se insomma sono un po' di puntate che sembra che... da lui che seviziava, più che altro. Da buoni... esponenti della bella politica di sinistra di una volta, sembra quasi che ce li mangiamo vivi, ma non è così, insomma, assolutamente. Li picchiamo con loro stessi. Prima li bolliamo. Sì, ma giusto per togliere, sai, quella patina, per sicurezza, perché non si sa mai. Dai, saluta, saluta. Ciao! Pietro. Pedrozzi. Si ammutolisce. Vedi, funziona così, basta chiamarli in causa, si vanno subito. Si intimidiscono, esatto. No, sarà... sarò un grande protagonista della prossima generazione di podcaster di Runtime, quando noi stanchi e demotivati andremo in pensione, quando noi non saremo più indispensabili per lo sforzo produttivo del paese. Esatto, come ci ha ricordato ieri o oggi, no? Quando è successo la gaffona di sera. Toti, perché ieri Francesco sera. Cosa ha fatto Toti? Raccontacelo tu. Sì, raccontatelo, perché è bella questa. Niente, ha scritto un tweet praticamente, ora non ce l'ho testuale quindi non posso leggerlo verbatim, ma in cui diceva che comunque è vero che i contagi sono alti e tutto, però tanta la maggior parte dei contagi della gente che muore è gente non più indispensabile per lo sforzo produttivo del paese. In poche parole, i vecchi de merda. I vecchi de merda. Siamo a un linguaggio simile a Mein Kampf, alla fine. Sì, tutto sommato il messaggio era proprio quello di Goebbels, se vogliamo. Ma cioè, però ha aggiunto che però vanno tutelati. Che però vanno tutelati, certo, perché... questa frase. Infatti, questa è la cosa bella, che come spesso succede quando succedono queste shitstorm dovute a tweet sbagliati, fatti a caso, la cosa più divertente non è tanto il tweet di per sé, ma l'enorme arrampicata sugli specchi, neanche verticale, proprio di orientamento tipo a 45 gradi, però non da ore 9 praticamente, per cercare di rimediare a sta cosa, dando la colpa al social media manager, capolavori. Perché di solito si fa così. Sì, infatti la social media manager ha cercato in ogni modo di salvarlo, anche un po' in maniera imbarazzante. No. Sì, ha cercato di immolarsi prendendosi una colpa, ma era palese che, al di là del fatto che se il tuo collaboratore sbaglia, la responsabilità oggettiva resta la tua, perché stanno usando il tuo account, quindi parlano in tuo nome e per tuo conto, quindi al di là di questo, insomma... La tua voce. Ma poi quale leader si può definire tale se subito quando c'è uno sbaglio, quando c'è un errore, bastava scusarsi? Invece no, ci ha messo il carico, non ha voluto ammettere l'errore, anzi ha voluto anche cercare di far passare come al solito il ribaltamento dei ruoli, dicendo che chi ha letto che non ha capito. Così che funziona, Walter. Ma insomma non mi pare che abbia fingere e negare fino all'estrema... No, è anche vero che era una catena di tweet che faceva... cioè era un discorsone che era stato portato avanti via Twitter, e come ha detto Lercio, Toti si scusa dicendo quel tweet è stato estrapolato da un discorso di merda più ampio esattamente. Ma per dire che non c'è mai fine al peggio, come se non bastassero le parole di Toti, oggi Borghi della Lega ci ha messo il carico. Mamma mia, ragazzi, perché cosa ha detto fondamentalmente? Praticamente, lui da grande giurista costituzionalista che è lui, statista. No, costituzionalista, perché lui praticamente statista, cioè statista de cazzo. Statista de cazzo. Praticamente ha dato un'interpretazione alla Costituzione piuttosto originale, per cui praticamente gli articoli della Costituzione sono tipo in una classifica, quindi il primo è più importante del secondo, è più importante del terzo, è più importante del quarto, e ha ribadito dopo l'intervento di Conte in Camera dicendo che la salute è uno dei beni più, non ricordo le parole precise, più inalienabili, più importanti, una delle cose più importanti dal punto di vista dello Stato, della nazione, ha detto il primo articolo dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, quindi le attività devono rimanere aperte perché il lavoro è più importante della salute. No, diciamola con precisione. In realtà lui ha fatto un discorso che è costruito anche in maniera sensata, perché ovviamente è estrapolato un discorso da un tweet più ampio. Allora, lui sta prendendo l'articolo. Lui la sua controdichiarazione è: come si permette il presidente di dare un valore costituzionale più importante rispetto a un altro valore costituzionale? I valori costituzionali non hanno un'importanza numerica, no, da quel punto di vista. E se così dovesse essere, allora il lavoro è al quarto posto e la salute è al 32° posto. Quindi, cioè, ribaltando un po' il concetto, allora lui, cioè, l'intervento è più studiato, no? Cioè, nel senso, la sostanza è che comunque è sempre un discorso del merda, cioè, molto del merda. Che oramai non c'è più un freno alla decenza e a questo pensiero oramai palesemente filofascista. Ormai tutto è permesso. D'altra parte, il caposcuola di questo modo di essere è Trump. E non possiamo far altro che ricollegarci per andare a parlare del fatto che domani ci saranno queste benedette, stramaledette, strabenedette elezioni. E l'aria che tira non è delle migliori, perché Trump fino all'ultimo sta cercando di recuperare il gap su Biden, che in parte sembrerebbe si sia assottigliato, ma insomma gli exit poll, le statistiche preelettorali, soprattutto in America, l'abbiamo visto anche nelle elezioni precedenti, valgono ben poco, quindi potrebbe succedere veramente di tutto. Non è da escludere che Trump intervengono i russi. Non è da escludere che Trump possa essere rieletto, attenzione, perché noi tutti... Lì secondo me c'è un problema, anche, come posso dire, sostanziale, che noi in Italia per esempio non ci abbiamo, essendo comunque... Le bombe atomiche. Essendo comunque legati a un certo tipo di visione anche un po' obsoleta del voto democratico, essendo comunque legati a una federazione molto ampia, essendo legati anche molto al voto per posta, praticamente le votazioni in America durano diverso tempo, cioè nel senso effettivamente diverse settimane, ma come abbiamo detto, cioè nel senso alcuni hanno iniziato a votare anche da settembre. E questo lo spoglio e lo scrutinio avviene sempre e comunque nelle ore successive alla chiusura dell'election day. Però c'è un problema sostanziale che in Italia non c'è. In Italia, quando si definisce il periodo di voto, comunque durante la fase finale della campagna elettorale non si può più poi fare nessun tipo di intervento. Invece 24 in America, ore. Questo meccanismo non esiste. Questi continuano a votare col presidente, che può fare qualsiasi cosa anche fino all'ultimo giorno, e ovviamente guadagnandone o perdendo consensi, chiaramente, perché poi non è che è detto che quello che fa poi sia sempre positivo, no? In generale. Però è chiaramente, abbiamo visto che per quanto Biden ai sondaggi sia ancora in vantaggio, con questo vantaggio si è assottigliato, e poi bisogna sempre vedere se questo vantaggio fa sempre fede al voto proporzionale, che in America, sapete, non c'ha nessun valore, o se invece poi tiene in considerazione il sistema dei grandi elettori che in realtà poi alla fine è il lago della bilancia, è quello che funziona, cioè, anzi, che perché comunque il cittadino americano, ricordiamolo, non vota il presidente, vota i grandi elettori del proprio stato che andranno a votare il presidente. Tra l'altro, i grandi elettori che prendono mandato dagli elettori possono anche votare un presidente diverso, cioè nel senso non dovrebbero, non è mai, quasi mai successo credo, però hanno il dovere costituzionale di avere un'obiezione di coscienza, cioè nel senso se fosse così allora Trump dovrebbe essere spacciato, perché io immagino che anche una parte dell'elettorato repubblicano dei grandi elettori repubblicani così di buon occhio non debbano vederlo, quantomeno perché sanno che è una scheggia impazzita, non è un discorso di valori condivisi o altro, è che proprio c'è un personaggio mentalmente instabile. Scusa Marco? È uno scheggio impazzito che comunque gli fa comodo, secondo me, alla fine. Non lo so, Marco. Non adesso non più. Fa adesso comodo più. Ai russi. Se implode, diciamo, per 10 anni, non penso che si parli. Secondo me, loro lo hanno sottovalutato all'inizio. Oggi, tutta la stampa, tutta un certo tipo di intelligenza è totalmente contro Trump. Cioè, nel senso, sarà a fare veramente carte false. Perché ha dimostrato di non seguire un ideale. Lui non sta perseguendo l'ideale repubblicano. Lui sta destabilizzando tutto il sistema. Lui sta destabilizzando tutto e si sta facendo i cavoli propri. Sì, vabbè, ma sai. I cavoli propri è sempre da vedere che si intende, perché secondo me dietro c'è comunque una progettualità e siamo noi che magari. Ma non Simone, io non ti parlo. Scusami, non ti parlo dei cavoli propri alla Berlusconi, per capirci, quando venivano fatte delle leggi che più o meno smaccatamente favorivano certi tipi di azienda. Io parlo dei cavoli propri all'ennesima potenza di un personaggio talmente vanesio, ma anche talmente alienato mentalmente, che non capisce lui stesso le implicazioni del suo ruolo. Lui pensa, sta lì e si sente una sorta di semidio, perché quando parla te lo fa capire, mette sempre bocca in argomenti di cui non sa niente e cerca di utilizzare come argomento il fatto che, essendo lui il presidente, ne sa per forza di più degli altri, ne sa più di Fauci in quanto a virologia, ne sa più di dei grandi economisti, più dei grandi scienziati, insomma, e lo ha detto in maniera abbastanza plateale. Soprattutto il riscaldamento globale non esiste, quindi abbattiamo la foresta secolare. Ma anche perché loro hanno un po' questa concezione del presidenzialismo tra virgolette estremo, che diventa quasi una sorta di reggente, no? Poi in realtà abbiamo visto che comunque, se il Senato americano si mette di traverso, poi tutti sti pieni ultrapoteri il presidente americano non ce l'ha, insomma. È comunque, come giustamente che sia in ogni democrazia, è comunque deve sottostare poi alla fine a determinate condizioni. Altrimenti il Senato comunque non servirebbe a nulla, se non a fare yes man, ecco. No, sì, infatti di solito gli americani hanno questa cultura che poi ancora funziona, grazie a Dio, che è quella che nel medio mandato c'è l'elezione parlamentare e di solito comunque alla fine votano sempre il partito opposto al partito del presidente, no? Che è un modo per controbilanciare, equilibrare. Che poi era quello che succedeva in Italia fino a qualche decennio fa, fino a che comunque c'era ancora la Democrazia Cristiana e si votava al Parlamento, si votava alla Camera dei Deputati la Democrazia Cristiana e si votavano le forze di sinistra al Senato, che era un modo di, cioè, nel senso, tantissimi anche politici hanno sempre dichiarato che era un modo di fare, cioè era una cultura comunque politica in Italia questa, e serviva comunque per bilanciare. C'è anche da dire che Trump, come tantissimi altri soggetti, vedi Alemanno da noi, hanno tirato fuori, diciamo, dalle bare e dalle fogne tutta quella serie dei soggetti e dei figure che chiaramente oggi so sorci liberi, cioè sono cani sciolti per le strade americane, insomma, cioè, così come è stato a Roma per molto tempo anche da noi. E questa è un po' la cosa. Ecco, poi c'era una notizia che abbiamo visto prima, quella del pullman, no, se la volete dire, perché sì. Insomma. Ma avete letto i tweet che ha scritto il sociopatico là? Prima ha scritto I Love Texas, perché è capitato lì, e poi ha detto: no, ma li stavano scortando perché sono gentili, ma tua madre. E zio Mischi faceva proprio riferimento a questo video che volevamo raccontare in chat. Infatti dice: avete visto il video dei sostenitori di Trump che hanno cercato di buttare fuori strada il pullman con i sostenitori di Biden? È esattamente questo a cui ci stavamo riferendo, zio. È una di quelle scene che ovviamente è stata in qualche modo mistificata, è stata alterata, certo. È stata sminuita Da Trump, perché non sia mai che prende una posizione contro qualcuno che in qualche modo lo sta idolatrando, no? E quindi... Io però posso dire una cosa, perché poi vedete, il popolo americano è un popolo un po' strano, no? Cioè, comunque legato, diciamo, a un'ideologizzazione del proprio sistema, no? Quasi come se fosse una cosa da difendere a prescindere, no? Esatto, come se fosse una cosa da difendere a prescindere, cioè nel senso, vabbè, ok, siamo poveracci, non abbiamo accesso alla sanità, però viva l'America capitalista, no? Perché insomma, poi alla fine io mi domando se veramente ci saranno degli ispanici che voteranno Trump dopo quello spot elettorale che non ho capito. Ma è bellissimo. Ancora, non ho capito ancora se è falso o se è vero. No, no, è vero, è vero, è vero, è vero. Ah, e oggi ha parlato con accento italo-americano, mi fanno sapere. Ha sì, parlato anche male di Pavarotti. Ha detto che lui non è una diva come lui, una cosa ma, del genere. Insomma. Sì, dicendo che non è che come Pavarotti, che basta un pochino di mal di gola e non canto, non faccio lo spettacolo. Lui, anche se è sopravvissuto al ha sconfitto il Covid con i pugni nelle mani. Praticamente lui lo ingaggiò a Pavarotti per una festa privata che costò tipo 1,5 milioni, quando diceva in giro che per lui sarebbe venuto a cantare per molto meno. Comunque alla fine gli costò 1,5 milioni e praticamente tipo dopo poco tempo, dopo pochi minuti che cominciò a cantare Pavarotti, dicendo ragazzi non gliela faccio, non sto bene, e lui gli sbroccò praticamente perché diceva ah, devi darmi almeno metà, e Pavarotti dice senti al massimo ti posso cantare l'anno prossimo gratis. C'è rimasto un po' male. Beh, però posso dire che in un'ottica del genere, come dire, lo una gara tra... sarebbero tutto il culo pure a me. È una gara tra stronzi, perché una volta che ti pago tu svolgi la prestazione per cui ti ho pagato. Ci può stare che come cantante lirico di quel livello, se la voce non ti sostiene, non ti puoi esibire, va bene, lo rifai. E se non lo rifai, i soldi me li dai indietro, perché non stavi lì a fare beneficenza, insomma. Quindi, visto dal punto di vista del Trump imprenditore che ha pagato le prestazioni professionali di un cantante, ci poteva stare. Per quella serata che ho $1,000 a biglietto. Vabbè, capito, però insomma... Vabbè, stavo leggendo un chat, Zio Mischi, per esempio, Per G, che diceva Mentana si sta già rimpinzando di coca in preparazione della sua maratona. Vabbè, e stavolta non so quanto gli converrà fare la maratona, perché come raccontavamo la mattina di mercoledì potrebbe non esserci l'esito elettorale, perché c'è il problema di questi stati che sono stati autorizzati, non è un problema, al conteggio dei voti anche per 2-3 giorni successivi alle elezioni, purché si contino schede arrivate prima della chiusura delle urne. Il problema è che Trump ha già detto che schiererà avvocati a destra e manca per non far succedere questa cosa. C'è una nota a margine però, Walter, su questa cosa. Possono tenere conto di questi voti che arrivano anche 3 giorni dopo. L'importante, la nota a margine del presidente, è che siano voti per Trump. Vabbè, certo. E tra l'altro, tra il serio e il faceto, aggiungiamo che stanno costruendo la chicken fence intorno alla Casa Bianca, perché il buon clima disteso, esatto, in un clima distesissimo praticamente Trump si sta barricando, perché ricordiamoci che 5 minuti dopo che lui perde i privilegi presidenziali, sì, potrebbe essere potrebbe essere la legge marziale a San Quintino. Lui è la famiglia, tra l'altro, cioè, perché non è da solo. Signor presidente, abbiamo perso legge marziale. Che poi io penso... Sono ancora in carica, vero? Sì, bene. Anche qui, fino al 20 gennaio. C'è sempre da dire una cosa importante, secondo me, no? Il fatto che tu come presidente di una repubblica importante come quella americana ti metti anche a incitare i tuoi elettori a boicottare, anzi a sabotare il voto per posta, no? Dicendo andate a votare e poi votate pure per posta, no? Così vediamo che cosa succede. Come che cosa succede? Tu sei il massimo rappresentante di quel governo. Se quel sistema non funziona è anche colpa tua, no? Cioè nel senso... Comunque, ragazzi, un presidente, per quanto noi di presidenti di cattivo gusto ne abbiamo avuti diversi negli ultimi anni... E troppi magari ne avremo in futuro, ragazzi. Un personaggio come Trump non l'avevo mai visto della Repubblica. Fermi, abbiamo avuto Cossiga, cioè siamo beccati pure quelli, diciamo così, un po' avariati. Sì, beh, però non ti dica, basta, dai, raga, chi altro? Cioè... Abbiamo pure uno che si è dovuto dimettere. Però allora attenzione, al di là di questo tipo di contaminazioni che state intendendo, qui noi adesso stiamo parlando di un personaggio che utilizza senza nessun freno inibitore un linguaggio meschino, delle esortazioni meschine che vanno, sono proprio spicciole, capito? Non stiamo parlando di niente di studiato a tavolino, niente di raffinato, non stiamo parlando di certi tipi di connivenze. A livello mondiale è diventata così, cioè nel senso non è che è lui o è l'Italia o roba del genere, è proprio a livello globale che oramai il discorso è arrivato. Beh, ma credo che l'abbia sdoganato lui nelle elezioni di 4 anni fa, questo sistema. Ma, prima un po' di freni c'erano. Ma non lo so, non lo so. Vabbè, poi questo sarebbe il problema minore. Poi c'è comunque da fare una differenza sostanziale, istituzionale, tra comunque quello che può essere un Presidente della Repubblica in Italia, che è comunque una figura rappresentativa, piuttosto di quello che è un presidente negli Stati Uniti, che è comunque una figura esecutiva. Vabbè, cioè, aspetta, dico... quando io parlo del parallelo con l'Italia e parlo di presidenti, ti parlo in primis di presidenti del Consiglio, uno basso in particolare, ecco, per fare delle citazioni. Uno basso in particolare. Sì, mi consenta di fare dei paralleli, per quanto ci abbia fatto fare discrete e brutte figure diplomatiche a livello internazionale, per quanto abbiamo esseri come l'attuale ministro degli esteri e in precedenza ministro del lavoro, che ci stanno facendo fare delle figure veramente da pera cottari, a sto livello non ci arriviamo persino con lui. Pensateci a questo. Neanche colui che urlava pieni poteri al papete tra un monito e l'altro ha detto cose, ci è arrivato molto vicino, però a incitare a nullificare, ad annullare il voto con pratiche ambigue non ci è arrivato nessuno. Diciamo che in Italia non ci sono margini, non ci sono proprio tutti questi margini per poter fare questo tipo di contestazioni, anche se qualcuno l'ha fatto, ha richiesto i conteggi in altre epoche. Diciamo che quello che ha fatto Salvini, secondo me, è peggio: ha incitato la gente in questa maniera, anche in maniera subdola e infame, perché comunque non l'ha fatto neanche in maniera proprio aperta ed esplicita, ma ha incitato la gente a ribellarsi allo schema mascherina. Coronavirus, insomma, cioè lui è stato uno dei primi che ha dato un po' il là, poi si è un po' defilato poi lui si è un po' defilato da questo punto di vista, perché aveva capito che era un gioco pericoloso, però comunque ha innescato un meccanismo, quindi cioè, se vai a vedere, ragazzi, cioè, qui sì, ormai il danno era fatto, ci sarebbe da scrivere libri su stem... Vabbè, no, ci sarebbe da scrivere avvisi di garanzia, se vuoi la mia opinione, non libri, però vabbè, d'altra parte, come dire, libri di garanzia, sembra avvisi che di garanzia. Tutto avvisi di garanzia, sembra che tutto sia lecito. Vabbè, ragazzi, che dire, io credo che ormai non dobbiamo far altro che darci appuntamento da un punto di vista di esito politico a lunedì prossimo, perché alla prossima puntata di OGM di lunedì prossimo si suppone che avremo tutti i risultati e Non ne siamo sicurissimi, però che saremo ancora. Però possiamo fare i nostri pronostici, ragazzi. Potremmo fare dei pronostici. Vogliamo fare il pronostico? Vai, Marco, fai il pronostico, vai. Io, secondo me, vince Trump. Marco dice che vince Trump. Secondo me vince JFK. E poi fa una brutta fine. No, io... allora, Carmine e Francesco, ci volete dare il vostro pronostico? Sanders. Sì, però secondo me magari. Vince Bernie Sanders, vince Carmine. Ma guardate, io vorrei tantissimo vinca Alessandra Ocasio-Cortez per tutta una serie di motivi. Ma lei sarà una delle prossime. Comunque, no, comunque no, seriamente, non lo so. Me lei Biden, è nata negli Stati Uniti, se no non si può candidare. Lei è nata il futuro degli Stati Uniti. È a sinistra, ragazzi. Cioè, purtroppo loro saranno il motore che ricostruirà la sinistra e tutto il resto del mondo. Pare una stronzata e paradossale, però secondo me oggi, dove la sinistra è completamente sparita da una buona fetta del mondo occidentale, alla fine il paese più anti-de sinistra del mondo alla fine rischia di ridare una spinta. È una lettura complicata, perché c'è un problema legato al capitalismo esasperato degli Stati Uniti. Lo so, però la crescita dei movimenti socialdemocratici in America oramai è oggettiva, ne parlano anche i più importanti quotidiani e si stanno domandando se è soltanto una ventata o se sarà quello il futuro degli Stati Uniti. Poi chiaramente interverranno i poteri, quelli forti, che spazzeranno via tutto, però in qualche maniera oggi centinaia di migliaia di persone, se non milioni di persone, aderiscono adesso ai vari movimenti che poi fanno oggi confluiscono molto in Bernie Sanders, ma poi confluiranno sempre Joe Biden anche... però vabbè, sì, no nel senso adesso confluiscono in Bernie Sanders come personaggio, no, come candidato, che comunque vedrai che alle prossime elezioni si ripresenteranno comunque, cioè nel senso anche sì, ai prossimi primari. Più giovane magari. Per quanto mi riguarda, invece il pronostico è che vincerà Kamala Harris, ma non per cattiveria, è che Biden mi dà l'idea che gli è rimasta nemmeno in giro di palazzo. Quindi sì, può essere. Duchamp de vita. Esatto, Duchamp de vita. E vabbè, meno male che è quasi calvo. Vabbè, ragazzi, che dire? Lasciamo la politica se siete d'accordo, perché io ci avrei la volontà di mettere quella sigla lì in maniera tale che parliamo di quell'argomento lì, però siccome siamo un po' più in palla del solito, ci mettiamo anche quell'argomento là. Bum, bum, bum. Ed eccoci qua ancora una volta a parlare di Star Trek Discovery e non soltanto. E benvenuti a sti frocioni. Esatto, belli grossi e capoccioni. Era il titolo della puntata. Però. Terza puntata di quante? 12? Non ricordo. 12, 12. 12, in cui abbiamo visto, credo, un po' di canonicità trecchiana, perché c'è il classico episodio in cui si fa un po' di diplomazia, in cui una trama è... perlomeno una sottotrama inizia e si esaurisce, e abbiamo visto entrare in scena dei nuovi personaggi. Sono rimasto un po' agghiacciato dal nuovo personaggio, perché è la crasi di una serie di stereotipi star trekkiani che, messi tutti insieme nella stessa scatoletta, potrebbero creare uno dei personaggi più antipatici della storia del franchise. Voi che dite? O più emblematici, chi lo sa. Ma anche entrambe, una cosa non esclude l'altra, Sì, diciamo che allora, vabbè, sempre uno spoiler. Sì, velocemente sul secondo episodio era un po' quello che ci aspettavamo, ossia praticamente la ricongiunzione del primo episodio, no? Quindi visto dalla parte della Discovery, anche se abbiamo visto che poi c'è un jump temporale minimo, insomma, che dà il pretesto poi a Michael Burnham. Diciamo, gli dà il pretesto per dire: è passato un anno, sono un po' cambiata, però sono cambiata. Mi sono cresciuto i dread. Mm. Però siamo flotta stellare, siamo i più buoni. Siamo flotta stellare. E, ma lì c'è un casino, ma noi siamo flotta stellare, siamo i più buoni, siamo sempre più buoni. Ma senti un po', lì se stanno a menare, noi siamo la flotta stellare, non spariamo per primi. Il terzo episodio, devo dire, è interessante. Il terzo episodio è interessante perché, alla fine, secondo me, il rischio di andare così tanto nel futuro e che ti permette di costruire una storyline, insomma, che non è mai stata costruita, quindi poi fa un po' tutto quello che cazzo ti pare. Ma un rischio maschio senza fischi? Esatto, diciamo che il rischio sta nel fatto di non riuscire a costruire uno scenario coerente tra una federazione che esiste e non esiste, non si capisce bene, e tutto quello che rimane dietro la federazione. Per esempio, abbiamo avuto un contatto con la Terra e un ridisegno geopolitico della Terra che è anche interessante, tutto sommato, cioè, nel senso, gli ridà, insomma, una sua impronta diversa che ci riporta quasi ai tempi de Enterprise, della guerra fredda. Oddio, sì, un po' sì. Quindi, alla più fine, che altro mi è sembrato un metaforone per la Brexit, ma vabbè. Ma vogliamo parlare di questo fenomeno che ha in qualche modo investito l'universo a un certo punto, tutto il dilitio del quadrante alfa, ma solo quello sulle navi federali praticamente è esploso all'unisono? No, tutto, solo che a quell'epoca le navi che andavano a curvatura erano praticamente tutte navi della federazione, quindi eppure navi che andavano a dilitio, non a curvatura, però... Mi viene da pensare che anche l'impero Romulano, l'impero Klingon e tutti gli altri usassero il dilitio. Probabilmente quelli già non esistevano più. Infatti, non so se avete notato, manco ne abbiamo sentito parlare dei Klingon. Esatto, cioè nel senso noi non sappiamo. Arriveranno. Ma sono tutti rimasti appiedati, comunque. Allora, sì. il discorso è questo, è che in 700 anni non conosciamo ancora in che maniera era evoluta la federazione, quindi non sappiamo se aveva inglobato tutto il quadrante, cioè se non esistevano più, a parte ricordatemi sempre il fatto dei Romulani che comunque sono condizionati da un fattore, insomma, di storyline che già li vede un po' borderline. I Klingon non sappiamo, quindi non lo sappiamo com'era la federazione fino al grande fuoco, al grande evento, no? Però il grande evento praticamente colpisce il dilitio, però da quello che loro specificano a un certo punto, dilitio tutte le navi che in quell'istante erano a curvatura. Quindi no, anche quelle non a curvatura. Però loro quando giustificano il fatto di allora come mai voi siete stati... Vabbè, fammi finire il pensiero. Le stazioni sono esplose, quindi non c'entra niente la curvatura. Allora, dice tutto quello che era caricato sui motori, quindi immagino quello che veniva usato come combustibile. Sì, però loro gli dicono: voi come siete scampati al grande fuoco? Noi in quel momento non eravamo, noi in quel periodo non eravamo a curvatura. Cioè loro dicono questo, raga. Poi dopo voi potete. Sì, capito. Ma se non eravamo a curvatura, quindi intendono che non utilizzavano come fonte di propulsione il dilitio. E che facevano? Era spento. Se non andavano a curvatura, andavano a impulso. Che te devo dire? Non lo so, o usavano altre tecnologie. Si erano spenti. Comunque, le stazioni, tutte quante le stazioni sono esplose. Per cui, cioè, non è possibile che le stazioni non vanno a curvatura. Quindi, quelle sicuramente. Comunque, c'è. Notavo che c'è un simpatico, tra virgolette, parallelo tra questa trama è quella della prima stagione di Picard, in cui a un certo punto c'è stata una mega esplosione di quelle totali globali che praticamente cambiano il corso degli eventi. Non so se avete notato questa similitudine. Attentato terroristico. Ma in realtà, ho detto, stando a quello che si dice in giro, il richiamo più che a quello è alla particella Omega, che è una cosa che viene trattata su Discovery. La particella Omega però non c'entra niente col dilitio. La particella Omega è una fonte di energia illimitata che non è possibile controllare, perlomeno non era possibile controllare, e che se esplode rende impossibile il warp in quel settore, per cui deve essere distrutta appena si trova, perché non è gestibile. Però non c'entra niente col dilitio, quello dovrebbe sostituire addirittura il reattore materia antimateria, con cui il dilitio praticamente serve da ago della bilancia, quindi non c'entra nulla, no, le due cose. Probabilmente potrebbe essere che possa essere utilizzato al posto del dilitio in questo nuovo futuro. In quel caso sì. Non lo so, secondo me dicono che è legato a un episodio di Voyager. Scusate, sì, di Voyager. Vabbè, okay. Genoway. Voyager, non so perché le mine quantiche transdimensionali, sì, sulle scappellate. Le mine quantiche? No. Quelle di 7 di 9? Nel caso di Genoway poteva essere. Quelle sono le mine. No, vabbè, giù in Sicilia, le mine. In Calabria, in Sicilia si dice le mine. Sono anche un dolce, vabbè. Le mine di Santa Rosa? No, di Sant'Agata. Vabbè, dai, abbiamo capito che c'è la cultura terronica. Vabbè, però capito, sì, che ci sono le mine. Facciamo una cosa, allora andiamo avanti e facciamo un parallelo, perché abbiamo promesso, ed è anche giusto, che in questa incarnazione di OGM avremmo iniziato a parlare, visto che da questa settimana abbiamo anche un episodio a settimana del Mandarinaro, come mi piace chiamarlo, quindi di The Mandalorian, e visto che Francesco è più appassionato di Star Wars piuttosto che di Star Trek, diciamo qualche parola anche di The Mandalorian, che è una serie notevole, veramente notevole. La seconda stagione è partita col botto, Francesco. Sì, addirittura col botto mi sembra una parola grossa. Dai, una bella storia. Eh sì, è grossa. No, una cosa bella. No, è stato relativamente più appassionato, nel senso, sicuramente non sono appassionato di Star Wars come il qui presente Carmine Puccio Consio. Puccio. Solo Canso. Perché se avessi anche avuto due gemelli li avrei chiamati Luke e lei, non mi pare il caso. Ah no? Però comunque me la sono vista l'anno scorso e mi è piaciuto come esperimento, soprattutto diciamo gli episodi della main quest, perché c'è sta cosa originale e particolare, perché davvero sembra molto esplicitamente la struttura di un videogioco, le quest, le ricompense, sì, le quest, le sottoquest. Sì, sì. Ed è, vabbè, in realtà è la metà può essere principale, la sottotrema, sì. Secondo me tutto nasce dal fatto che il The Mandalorian poteva essere stato concepito originariamente come la trama per un film, e le side quest che tu citi probabilmente sono stati dei filler aggiunti per dare poi concretezza ad una serie che è stata spalmata in 10 episodi, tra l'altro di durata variabile, perché la prima stagione di The Mandalorian aveva certi episodi che duravano mezz'ora. Altri 45 minuti. No. Poteva variare da mezz'ora a tre quarti. Vabbè, però la maggior parte degli episodi tre quarti d'ora, ma guarda, tre quarti d'ora. Poi l'iniziale e il finale sono più lunghi. Vabbè, l'iniziale e il finale sono più lunghi, ma secondo me a 40 minuti non ci arriva niente. No, nessuno. 20-25 minuti. Sono tutti dei 25 minuti. Infatti, secondo me, nella seconda stagione il grande passaggio sta proprio nel fatto che sono diventate puntate da 50 minuti. Che speriamo che siano tutte da 50 minuti. Sì, magari questa era una doppia puntata. Ah, può essere pure, però diciamo che quello sarebbe il rischio maggiore, perché portare un format a un altro format, insomma, diventa un po' complicato. Io volevo lasciare la parola a Francesco, perché alla fine stava a parlare lui, l'ha monterotto in 60. A me l'unica cosa che veramente mi piace è comunque questo feeling western che è originale di Star Wars, poi alla fine, però in particolare in questa seconda stagione è proprio lampante, insomma, cioè è proprio bello da vedere. Bello, infatti, no, parte abbastanza sempre in modo piuttosto tradizionale, perché comunque mo gli hanno affidato sto cazzo di Baby Yoda, e dice: che cazzo me ne già fai su Baby Yoda, cioè lo devi portare a casa sua. Cioè, infatti, sul 7,40 questo qui mi pesa tanto, quindi è meglio se me ne sbarazzi prima della chiusura dell'anno fiscale, diciamo così. E quindi deve cercare comunque la sua gentaglia. E inizia sempre con questo cold opening, che va su sto pianeta tutto sgangherato, tutto Morales brutti contro l'impero. E gli chiede una mano, però gli vuole fare il culo, e poi gli fa il culo a lui stesso. Ma c'è poco di originali, sia come one liner, per esempio dice: sì, prometto che non ti ucciderò per mano mia, e poi lo fa mangiare ai cani, queste cose. È un po' come, ti ricordi quando ti ho promesso, mi hai promesso che ti avresti ucciso per ultimo, e ho mentito, più o meno il succo è quello. No, lui è più coerente, lui ha detto: io non ti uccido per mano mia. Esatto. Sì. Comunque volevo segnalare, visto che si parla di questi tecnicismi, che degli 8 episodi che compongono, no, 8, 10, quanti sono, scusate, degli 8 episodi che compongono la prima stagione del Mandaloriano, il più breve è il secondo, che dura 33 minuti, il più lungo, il più prolisso, è l'ultimo, che ne dura 49, la media è sui 40 circa, insomma. Quindi se andiamo a sommare 40 minuti per 8, viene fuori un film lunghissimo, giustificato appunto dalle side quest che fanno un po' da filler. Togliamole tutte e secondo me abbiamo ottenuto quello che sarebbe potuto essere in origine il Mandaloriano, cioè un film stand alone quelli che erano previsti. Perché se vi ricordate, dovevano essere tre i film stand alone che dovevano alternarsi ai tre film dell'ultima trilogia. Solo che io non me lo ricordo questa cosa. Mi ricordo che dovevano fare un film che era incentrato su Boba Fett. Quindi, sì, secondo me, questo è stato completamente riscritto tutto il concetto di sta cosa. Gli era rimasta più la cosa di fare un qualcosa su un Mandaloriano. E non ci vedo tutta questa grossa analogia. Cioè, però è interessante il fatto che. Cioè, io ero anche abbastanza scettico, tutto sommato, perché dice: alla fine, ok, vi siete comprati Star Wars, e quindi adesso dovete Star Wars a praticamente i coglioni fino a che la gente non sanguina Star Wars dal culo. Però insomma, in realtà poi alla fine comunque il prodotto, la prima stagione, è stata anche carina ma semplice narrativamente, diciamo che non eccelle in niente, cioè secondo me, né né la prima puntata della seconda stagione né la prima stagione, però è comunque bello da vedere, cioè è piacevole da vedere. Sì, sono gli spunti tecnici, non era l'intento accelerare dal punto di vista non era proprio l'intento, cioè te lo dice, cioè manifestatamente non è proprio, non vuole accelerare, è narrativo, sì, no, non vuole essere, ma ci sta pure, cioè non vuole essere niente di troppo originale da questo punto di vista, però comunque è molto coerente, molto, cioè i dettagli è curata nei minimi la cura, esatto, beh, la cura dal punto di vista sia tecnico che stilistico e anche registico, volendo, e ti riporta a quell'ambiente Star Warsiano originale, ed è su quello funziona al 100% secondo me, quindi c'è, sta, è piacevole da vedere, dai, c'è un cazzo da fare. E poi tecnicamente è molto innovativa, no? Perché è fatta con questi mega schermi a fare da sfondo, e che insomma hanno creato delle nuove tecniche che probabilmente poi verranno riutilizzate anche a livello cinematografico, che aprono nuove frontiere. Sì, consideriamo un prototipo, dai, esatto, cioè nel senso, esatto, qualcosa che comunque è stato utile per sviluppare tecniche che poi comunque porteranno soldi all'interno di quell'ambiente di produzione, insomma, questo è... Però devo dire, cioè io l'ho visto volentieri, non mi sono mai annoiato, però devo dire, cioè, se uno dice, ma te che parla? Cioè lì se non c'era, diciamoci la verità, diciamo che se non c'era Baby Yoda, che comunque le faceva ogni tanto un sorrisino, il bambino, sì, appunto, quindi creatura ma duro. Ecco, vabbè, ragazzi, è stato bello questa sorta di praticamente di Star Wars che incontra Dune, perché a un certo punto ma anche Tremors, sì, io ci ho visto pure un filino di Shadow of the Colossus, perché comunque trovare il punto debole per ammazzare, c'è un pizzico di Evangelion, sì, c'è un pezzo di sì, dai, Evangelion è stato per tutto, e poi all'ultimo che conosce, che ha giocato a KOTOR, te potrebbe dire che il vermone era comunque già inserito nel nell'universo, soltanto di perla del Dago Gaeta, una quest di KOTOR, sì, perché può sostituire i cristalli Kyber, esatto, per le spade laser, sì, sì, quello, esatto, no, vabbè, sì. Sempre cristalli, so, c'è sempre un puoi cristallo, puoi utilizzarlo come fonte di, cioè, come cristallo al posto come cristallo bolla, no. Ci domanda Virgì, ma quanti midichlorian ha Baby Yoda? Uno solo. No, quello uno, ma grosso, l'unica cosa che, l'unica critica, diciamo, che posso dire più o meno più pesante rispetto alle altre di questo primo episodio, è che parte praticamente con una side quest, praticamente, però in realtà poi si capisce nelle ultime scene che non è una side quest, perché ti fa vedere Puccio chi c'è, sblocchiamo i personaggi segreti alla fine delle side quest. Infatti, quando vediamo il Mandaloriano che va via portando via l'armatura di Boba Fett, vediamo una figura che ha osservato la battaglia da lontano con che il è Kray, Boba Fett, che si volta ed è Temuera Morrison, l'attore che ha fatto Django Fett, suppongo Boba Fett, ora, in quanto l'uno clone dell'altro, al 95% è Boba Fett, il restante è un clone. No, allora, ma i cloni mi sa che ancora... io vi sto per tirare il pippone Star Wars, ragazzi, aggrappatevi. Allora, i cloni, quelli che abbiamo visto come Stormtrooper, muoiono presto, i vuoti muoiono presto, perché sono a sviluppo accelerato. Difatti, nel secondo film, quando vediamo Boba Fett la prima volta, Tanwe, la clonatrice di Kamino, dice a Obi-Wan Kenobi che Jango Fett ha voluto, come ricompensa per il materiale genetico che ha donato, un clone non accelerato. Eh sì, quindi, è bambino. Vecchierà normalmente, dovrebbe avere una vita normale. Questa cosa viene ribadita nelle serie animate in computer grafica canoniche, che sono La Guerra dei Cloni. In particolare la serie nuova in cui si vede un gruppo di cloni modificati geneticamente, che si chiama il Bad Batch, che sono stati tra l'altro disegnati e scritti da George Lucas, che ogni tanto rimette mano dove ha venduto, e dove viene detto che comunque loro hanno un arco vitale più breve, tranne qualcuno. Secondo me è Disney che lo richiama. Scusate, salutiamo zio Minsky, che evidentemente va a nanna, ma a breve ti seguiamo. Fa bene, anch'io vado. Boh, visto che abbiamo parlato dei midichlorian, un'altra roba che secondo me, non so come la spiegheranno nella serie, ma secondo me ce la dovranno incastrare, è che pare abbastanza evidente che l'impero dà la caccia al bambino, a Baby Yoda, perché c'è un esperimento scientifico dietro in corso. Nelle varie declinazioni di Star Wars uscite in questi anni, è stato spiegato che Grievous quello a otto mani, Cyborg, che abbiamo visto nella trilogia, ha subito una trasfusione sanguigna col sangue di Sifo-Dyas, il maestro Jedi che era sparito e si era comprato l'esercito dei cloni con la carta di credito del consiglio, in un esperimento fatto dall'imperatore per vedere se la sensibilità alla forza fosse trasferibile o meno. Secondo me si sono clonati Yoda a quello scopo, però opinione mia, eh. Questo poi vedremo come... Vedremo con l'evolversi della trama, ragazzi. Insomma, di tutto e il contrario di tutto. Assolutamente sì. Secondo me potrebbero ancora non avercelo in mente. Sì, non avere un'idea. Anche perché io non credo che alla fine di questa stagione capiremo chi è, insomma. Dipende come vanno gli ascolti. Secondo me ci vuole un'altra stagione. Bravo, bravo, quarta stagione. Abbiamo il lockdown alle porte, quindi hai voglia, gli ascolti saranno eccezionali. Yeah. Sì, vabbè ragazzi, stagione, chiuderei la parentesi fantascienza, proprio tutto io. Ma prima di chiudere un attimo, perché c'è una cosa che so che Carmine ci voleva raccontare, riguarda una leggerissimissima figura di merda di Facebook. No, diciamo quelli che vengono chiamati in gergo comma 22, cioè quelle cose strane circolari che portano conseguenze ridicole. In pratica, che è successo? Che BBC c'ha un dipartimento che fa indagini su quello che accade nel web. Un paio di giornalisti di BBC si sono dedicati a vedere foto di abusi su minori pubblicate sui social network principali. Hanno puntato sì, decisamente. Ne hanno trovate un po' e le hanno segnalate alla moderazione di Facebook. A distanza di giorni andavano a controllare quelle foto, stavano sempre lì. A un certo punto quelli di BBC gli hanno dato in trip il cervello e hanno chiamato direttamente, qualificandosi come giornalisti, l'assistenza Facebook. Hanno parlato. E la persona che gli ha risposto ha detto: ma ci potete mandare copia di queste segnalazioni che avete fatto, così verifichiamo? E quelli della BBC hanno fatto sì, certamente, hanno preso il materiale che avevano e gliel'hanno trasferito. Sono stati richiamati da Facebook e si sono sentiti dire: se ci avete mandato questo materiale vuol dire che ne avete una copia, quindi vi dobbiamo denunciare alle autorità. Quelli della BBC sono rimasti un attimo interdetti e hanno detto: ma state scherzando? E poi abbiamo sentito tipo in sottofondo telefono polizia. Guarda, della favola, ci sono due giornalisti della BBC che in questo momento sono sotto inchiesta per aver inviato del materiale segnalando a Facebook che doveva essere dimostrato. Questo te fa capire che cazzo ci sta dietro a Facebook, anche secondo me, anche dal punto di vista un atto dovuto, vabbè, però no, vabbè. La polizia, però, cioè, quella dice: oh ragazzi, qua c'è qualcuno di noi che mantiene le fotacce dentro Facebook, però piuttosto mandiamo nei guai altra gente piuttosto di risolvere il problema internamente, cioè. Esatto, mandiamo bevuto qualcun altro, distraiamo, facciamo come si dice quando vuoi distrarre da... Fai il vago, fischietta. No, cioè, c'è proprio un termine che mi sfugge. Lega, quando vuoi... Fai la Lega, vabbè ragazzi, dai, io direi che a questo punto, insomma, anche oggi siamo stati bravi, la nostra ora e mezza ce la siamo fatta e andiamo a... Momento dei saluti, è vero? E lascerei la voce a Simone Pizzi per salutare tutti. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti. Ringrazio e saluto chiaramente me stesso, Simone Pizzi, e tutto quello che... Ascoltate che... Book. Ascoltatemi Book. Buongiorno un cazzo, che è uscito oggi. Lo troverete soltanto sui feed di Spreaker, non lo troverete altrove, soprattutto su iTunes e Spotify, per ragioni proprio di indipendenza totale. Non voglio cazzi, non voglio... Non vuole la Digos a casa. Bravo, ma no, Digos Los Documentos. E vabbè, ascoltatelo. Quindi ringrazio e saluto Francesco Lobby Frontali. Grazie e saluto voi. Innanzitutto felice giorno dei morti, io ci tengo sempre a ribadirlo. E ci siamo dimenticati che in settimana un noto presidente di regione ci ha citati in un suo intervento. È vero, vabbè, ce la conserviamo per la prossima settimana. Ok, io me la so persa questa, vabbè. Ringrazio e saluto ovviamente Marco Gualdi. Ciao, ci vediamo dentro il lockdown. Va bene. Inside the lockdown. Ringrazio e saluto anche Carmine Puccio Console. Ciao a tutti ragazzi. E dando la buonanotte a tutti, ringrazio e saluto colui che va a sfumare così come un uomo che se ne va nella nebbia nella notte, Walter Sbano. E io come il vino bianco sul soffritto sfumo, ma non prima di salutare tutti quelli che ci hanno fatto compagnia in chat oggi, a cominciare da Al 9000 che è arrivato praticamente a fine puntata e anche lui ha constatato: mi sono perso la diretta, ci potrei riascoltare in differita anche subito. Saluto Piergi, saluto Zio Mischi, saluto Cuciniere dallo spaccio profondo, Leo Vargion e tutti quelli che ci hanno fatto compagnia questa sera. L'appuntamento è lunedì prossimo, forse con un nuovo presidente degli Stati Uniti, forse con quello vecchio, chi può dirlo? È il momento colpo solo di entrambi, dire... colpo di scena. O con entrambi o con nessuno. E quindi, ragazzi, buonanotte. Buonanotte. Ciao ragazzi.